fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18 e 6 minuti, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 20.30, 800 24 00 24, è il numero verde come ogni sera per intervenire in diretta, cominciate subito a prenotare i vostri interventi e se invece volete interagire con noi in tempo reale ci trovate su Twitter, l'account del programma è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizio, siamo anche su Facebook, ieri tra l'altro abbiamo superato quota 3.000 like, se lanciamo la scommessa, arriviamo a 4.000 in un giorno, lì però dobbiamo premiarli tutti a quel punto, quelli che ci porta, se ci portassero a 4.000 in un giorno. Ieri abbiamo premiato il 3.000esimo like con i biglietti delle mostre, come facciamo ogni tanto. Bene, oggi con il passaggio parlamentare, il voto del Parlamento favorevole ad armare i curdi nello scenario iracheno, l'Italia entra ufficialmente, questa è la notizia, nello scenario della guerra in Iraq con un ruolo attivo. Voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Si può bere birra, tanto meno una cannetta, ma se è considerato, se sa usare la beretta. La libertà è una statua con cura fu innalzata, tentano di nascondere un'America malata. È inoltre all'esame l'evenienza di cedere materiale d'armamento di non conveniente utilizzo detenuta ad altro titolo dalle forze armate. Si tratta in particolare di armamenti più familiari e confacenti alle esigenze manifestate dai curdi, costituiti da armi individuali, di squadre, contromezzi con relativi munizionamenti, tutti di fabbricazione ex sovietica, confiscati dall'autorità giudiziaria a seguito di sequestro in mare avvenuto 20 anni fa nel corso del conflitto dei Balcani. Perché qui è a rischio innanzitutto la vita di civili, cristiani, yazidi, musulmani, tantissime persone. Credo che sia un dovere politico, ma innanzitutto morale, rispondere a questo dramma umanitario. È a rischio anche la stabilità già molto compromessa di una regione che per noi è strategica e che per noi è vicina, parliamo del Medio Oriente. È a rischio la sicurezza internazionale, a partire dalla sicurezza delle nostre stessi territori dell'Unione Europea. Due ministre, il ministro Pinotti della difesa e il ministro degli esteri Mogherini, con linguaggio un po' burocratico, linguaggio militare, il ministro Pinotti spiega il tipo di armi che si sta valutando di dare ai curdi. Qualcuno suggerisce ironicamente di darli incomodato d'uso gratuito, perché poi saranno quelli che diventeranno i nostri nemici tra qualche anno, se tutto andrà come è successo anche in passato, quindi che poi ce le ridiano le armi alla fine di questo conflitto. Al di là delle ironie e degli scherzi, anche dalle parole del ministro degli esteri Mogherini non è che si capisca granché, non è che si capisce molto del perché c'è questo intervento. Sì, c'è l'ISIS, nessuno che abbia capito bene da dove vengono, dove vanno, cosa stanno facendo. Sì, questo purtroppo sì, stanno facendo massacri, però si parla di una necessità morale e strategica, di un'area strategica per l'Italia. Però a dire il vero, qualcuno aveva chiesto parole più chiare per spiegare quello che resta comunque un impegno dell'Italia in uno scenario di guerra in Iraq, e non è cosa da poco. Sentiamo alcuni pareri a confronto, quello di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e quello di Vauro, che ieri è stato con noi, ieri sera. In Iraq in queste ore gli integralisti dell'ISIS stanno compiendo un vero e proprio genocidio ai danni di tutte le minoranze etniche e religiose. Tra queste, come tristemente avviene in molte altre parti del mondo, ci sono i cristiani che vengono perseguitati, mutilati, torturati, uccisi se non accettano di rinnegare la fede cristiana per convertirsi all'Islam. Pensavamo che questo genere di immagini riguardasse un tempo che non c'è più, il Medioevo, secoli fa. E invece sta accadendo proprio in queste ore e noi non possiamo far finta di non vedere. Noi abbiamo fatto guerre in tutto il Medio Oriente, abbiamo destabilizzato tutta quell'area a suon di bombe, di bombardamenti, di strage e di massacri, a cui ho assistito, per cui nessuno mi può dire che sto mentendo. Chiediamo a tutti gli italiani che vogliono con noi portare avanti questa iniziativa, questa battaglia di sensibilizzazione, di partecipare alla nostra campagna indossando un fazzoletto bianco come questo al polso, magari con la lettera araba che sta per N, Nazara, Cristiano, per dire che noi non rimarremo a guardare, per dire al governo italiano, all'Italia intera, che non chiuderemo gli occhi per non vedere le atrocità che si stanno compiendo ai danni di uomini, donne e bambini che hanno come unica colpa quella di essere cristiani. Io mi stupisco un po', no? Perché io non ho nessuna simpatia ovviamente per l'ISIS né per le dottrine che propugna e tantomeno per come le propugna. Ma noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto le guerre per esportare la democrazia, non le abbiamo fatte in Afghanistan e quel paese è diventato un mattatoio, le abbiamo fatte in Iraq, quel paese è diventato un mattatoio. Non abbiamo fatto la stessa politica dell'ISIS e con armi ad alto livello tecnologico e con massacri altrettanto brutali. Una Giorgia Meloni quasi più infervorata quasi del Papa sul tema dei cristiani. Il Papa che ha detto sì, è giusto fermare la guerra, l'aggressione, la minaccia dei violenti, ma attenzione a non fare come abbiamo fatto in passato, guerre di conquista. Mauro che si spinge a dire abbiamo destabilizzato il Medio Oriente, è colpa nostra. Cambiamo argomento. Ieri sera nel nostro sondaggio con gli ascoltatori abbiamo proposto, è venuto fuori di proporre di portare davanti a Expo simboli diversi che non i bronzi di Riace e è venuto fuori di portare per esempio una scultura raffigurante Rocco Siffredi, che è comunque un italiano conosciuto all'estero, simbolo dell'italianità, simbolo anche dell'amore, se volete, anzi sicuramente. Oppure l'altra cosa che è venuta fuori è una scultura, un'opera che rappresenti le realizzazioni dell'Italia nel campo per esempio delle invenzioni della plastica o del personal computer, cose magari di cui ci siamo anche dimenticati. Achille Bonitoliva ha proposto di portare il futurismo, opere che siano rappresentative del futurismo, il vero momento dell'arte contemporanea italiana. Achille Bonitoliva che ieri è stato con noi e ci ha parlato anche dell'iniziativa che la Giunta Romana gli ha chiesto di fare a Roma, presiedere una commissione per valutare quali pittori possono andare a Piazza Navona, hanno il diritto per le loro qualità artistiche di stare a dipingere a Piazza Navona, perché la Giunta Romana vuol far pulizia, un altro divieto, un'altra ordinanza per limitare qualche cosa. Oggi sul Corriere Flavio Briatore, parlando dei divieti, dice l'Italia sta impazzendo a furia di divieti, per esempio la questione della Versilia, col calo del turismo non c'entra nulla il maltempo e non c'entra nulla gli orari di apertura, i giorni di apertura delle scuole, il problema è che qua in Versilia se piove non puoi far nulla, non ci sono servizi, è tutto proibito, ci sono soltanto i pony per andare sui pony e non so cos'altro, non si può far nulla, troppi divieti. Uno di questi divieti è quello che Achille Bonitoliva vorrebbe imporre per esempio ai pittori, perché lui ha risposto così: io i pittori a Piazza Navona non li voglio. Francamente non si capisce perché proprio Piazza Navona e Piazza del Popolo debbano essere luoghi occupati indebitamente in nome di una tradizione che non è manco italiana ma è francese. Perché non ci potrebbe essere un artista vero che vuole andare a Piazza Navona? A comprare il gelato ai Tre Scalini. In prima visione, come le melone, puntuale come mandarini a Natale, la donna sul mio calendario appare, si spoglia mese dopo mese, una foto tira l'altra come le ciliegie, ma alcune pesche sono tese, non vedi che la pelle tira, sembra troppo dura, dici che è normale, non mi fido per natura, e tocco tutto quello che mi danno, l'uomo del monte dice sì, ma qui la confezione è troppo tra l'inganno, e sono prugnerape se chiediamo al ricotto, che una carota faccia fette dentro nei boxer, per le fragole champagne devi fare i migliori, però sti peperoni non li mando giù, e anche se sono nato nel tuo supermercato, se non sono sicuro non le compro più le pere. Non basta farle vedere, ora vogliamo toccare per sapere se sono pere. Eccoci con Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera. Perché la copertina, la prima pagina del giornale dedicata alle pere, si può dire, del ministro Giannini. Io ti chiedo perché, nel senso che vabbè che è agosto. Pronto? Sì, sì, io ascolto. Sì. È stata una domanda questa. Sì, la domanda è come mai avete deciso di aprire il giornale sul topless del ministro Giannini? È una domanda intanto, scherzosa naturalmente. Intanto diciamo che il direttore del giornale non è un altro, io, quindi, certo. Però c'è un tuo editoriale. È improprio, sì. Non bisognerebbe chiedere al direttore. Io sono un editorialista, mi è stato chiesto un pezzo, un commento sulla vicenda, l'ho fatto, posso rispondere del mio commento, ma sull'impianto del giornale avete sbagliato persone. Sì, no, perché sembrava un po' così un modo per dare un colpo al governo, nudo di governo, un colpo basso in questo caso, perché topless... Non tanto, perché il mio pezzo difende il ministro. Sì, sì, perché tu cosa dici di questa... Abbia pazienza, cioè, sì. Cerchiamo di seguire la realtà almeno. E cosa dici nel tuo pezzo? Qualcuno avrai letto, no? Devo raccontare il pezzo. Ma lo so, forse qualche ascoltatore non l'ha letto e magari... Sicuramente, allora se devo riassumere il mio pezzo cerco di farlo, anche se si può fare qualche fatica a riassumere 90 righe in due battute. In sostanza dico che chiunque a questo punto può mostrare il proprio corpo senza suscitare scandalo, lo si fa da molti anni, purtroppo ho constato anche che in Italia si continua come 50 anni fa a stupirsi per un paio di tette, poi ho anche rammentato la vicenda di Scalfaro che aveva schiaffeggiato una signora perché aveva una scollatura pronunciata, poi ricordo che negli anni 50 e 60 quando comparvero sulle spiagge i primi topless si scatenarono vescovi, preti, conservatori, bacchettoni per si stracciarono le vesti di fronte a questo, sono passati 50 anni, ormai le donne se ne vanno in giro con la minigonna, con i pantaloni corti, se ne vedono tutti i colori, ma siamo qui ancora a scandalizzarci perché un ministro, fra l'altro sulla spiaggia, su un lettino, si è denudata il petto e prende il sole, cioè, a me sembra una follia, cioè è la dimostrazione che insomma questo paese non riesce a progredire neanche diciamo così in questo campo così diciamo poco importante, no? Poi tra l'altro le tette ce le hanno anche gli uomini, sono molto diverse, magari sono meno gonfie, ma le tette le abbiamo. Allora se un uomo però con le tette fuori va bene, certo. Tra le righe però c'è anche un invito più nell'altro articolo, nell'altro editoriale di fianco al tuo, sono stati messi a confronto, di quello non il rispondo, tuo più però. Possibilista, l'altro più critico, però anche tu a un certo punto dici sì, però sarebbe meglio non esibirle, soprattutto per una questione anagrafica. No, io dico un'altra cosa, dico che il corpo uno lo esibisce eccetera, quando il corpo di una donna o di un uomo cominciano ad arrivare a una certa età per cui mostrarlo non è esattamente come allestire una vetrina di via Monte Napoleone, forse bisognerebbe rendersi conto che si va incontro anche a delle critiche, è tutto lì, perché il bello mostrato suscita anche compiacimento, magari se il bello non è più tale forse non è il caso di esporlo, tutto lì. Senti, parliamo estetico, non moraleggiante. Certo. Beh, questo sì, più una questione di buon gusto forse. Ma sì, questo. Io per esempio se dovessi andare in giro però... nudo non mi aspetterei degli applausi per strada, ma nemmeno io, nemmeno rischio io. E qualcuno se fuggirebbe inorridito, ecco, questo però ne sono consapevole. Però sembra quasi che ci sia una intenzionalità da parte del ministro, una forma di esposizione, cioè tu dici che un ministro, comunque che è chiaro, cioè, i paparazzi che lo seguono eccetera, poteva saperlo, poteva tra virgolette evitare in qualche modo, o c'è l'intrusione dei fotografi che cercano per forza il colpo a tutti i costi? Lei deve essere consapevole che togliendosi il reggiseno, sia pure in una spiaggia, essendo lei un personaggio pubblico, deve sapere che va incontro a dei rischi, tutto lì. Io non condivido chi manifesta riprovazione nei suoi confronti, però l'avverto che purtroppo ci sono in giro persone, anche fotografi, che fanno il loro mestiere, che hanno tutto l'interesse di fare una fotografia che interessa i giornali a cui poi venderle, e le fotografie di un ministro, se mostrano magari un seno non particolarmente brillante, una signora di una certa età, neanche perché è giovane la signora, però insomma il fotografo va in cerca di uno scoop, certo. Lo scoop lo puoi avere con la tetta meravigliosa o con la tetta un po' in difficoltà. Io ho avvertito, magari lo sa anche la signora, ma ho sottolineato il rischio. Dice, quando ti togli il reggiseno, devi essere consapevole del rischio che qualcuno ti ritrae e poi ti prende in un modo o nell'altro, per un motivo o per il suo opposto. Senti, oggi parliamo di cose più serie, sicuramente. Con questo voto, con questo passaggio parlamentare, l'Italia entra ufficialmente in uno scenario di guerra, pur non andando direttamente, ma fornendo armi ai Peshmerga, ai curdi che si stanno opponendo all'ISIS. Scelta giusta secondo te da parte del nostro governo? Ma secondo me sicuramente una scelta giustificata, perché i curdi sono in difficoltà, lo sappiamo, e cerchiamo di aiutarli. Poi naturalmente se una scelta è giusta o sbagliata non lo vedi mai nell'immediato, ma solamente a distanza di tempo. Per esempio siamo andati in Afghanistan a fare delle cose strane, siamo lì da 12-13 anni e non abbiamo combinato niente, quindi a distanza di tempo qualche dubbio nasce. La stessa cosa può valere per l'Iraq, siamo stati lì, abbiamo fatto una guerra che non finiva più, questo però non tanto noi quanto gli americani, e alla fine l'Iraq è peggio di prima, o mi sbaglio? Sì, sicuramente. Ma è un po' quello che sembra tra le righe avere detto anche il Papa, cioè quando dice attenzione a fare guerre di conquista. Qualcuno dice, un Papa che parla quasi come un diplomatico, come un ministro, non come il custode dei valori assoluti della cristianità. Guarda, il Papa secondo me ha il diritto di dire tutto ciò che vuole, come qualunque cittadino che viva in una democrazia passabile, non neanche decente, ma passabile come la nostra. Però a me, sinceramente, delle opinioni del Papa non importa niente. No, ma la domanda era sul fatto se è lecito dubitare, perché per esempio il parlamentare del Movimento 5 Stelle di Battista, che 4 giorni fa aveva espresso qualche dubbio sul fatto di andare a fare una guerra senza capirci nulla, è stato crocifisso. Io non so le posizioni che ha preso il giornale, che non è il tuo giornale, non adesso, ma insomma, o eventuali tuoi commenti. Beh, mi pare che il commento di questo signore di 5 Stelle sia un po' fuori dal mondo, anche perché abbiamo visto che è stato decapitato un reporter da questi nobili signori che fanno una guerra di tipo terroristico, quindi mettersi sul piano di questi qui mi sembra quantomeno sconveniente, e uso un termine ironico, perché porca miseria, come si fa a giustificare quello che fanno questi signori? Non è possibile, il loro comportamento suggerisce anche il commento, cioè siamo tutti basiti, siamo inorriditi, e quindi stare dalla loro parte anche solo sul piano così della discussione, sul piano retorico, mi sembra una scelta quantomeno infelice. No, il punto è se il nostro protagonismo, diciamo così, traduco quello che hai detto anche un po' tu, abbastanza fallimentare nello scenario iracheno e afghano, non suggerisca maggiore cautela che non quella di dire sono terroristi, andiamo, attacchiamo. Io ci ho letto questo nelle parole di Battista, il resto poi le sue analisi magari non le condivido, non l'ho neanche lette fino in fondo. Diciamo che il messaggio che è arrivato al grande pubblico è stato un po' diverso, no? Sembrava, magari mi sbaglio, ma non credo che questo signore facesse il tifo per questi signori. Questo non è, diciamo, molto elegante, no? Senti, un'altra cosa di cui forse, non lo so, si discute sotto l'ombrellone, sulle spiagge o in giro, o magari la gente che è rimasta in città lavora e legge il giornale regolarmente, è questa ipotesi di andare a prelevare da parte del governo ancora una volta qualcosa da qualche parte, perché insomma la situazione chiaramente non è rosea, la crescita non è meno, cioè nemmeno di quella che ci aspettavamo, quindi il governo dovrà andare Ma meno di quella attesa, e quindi non c'è, addirittura c'è recessione per quanto riguarda l'Italia. Quindi questa cosa del prelievo sulle pensioni, per qualcuno è ovvio andare a pensare ai redditi alti, qualcun altro però dice giustamente, se uno si è pagato i contributi e è un dirigente, ha preso una pensione anche alta, perché dovete andare a rompergli le scatole? Tu che ne pensi su questo? Sono anch'io di questa idea, anche perché constato che questi governi di centro-sinistra risentono sempre di una mentalità un po' antiquata. In sostanza, parlo di Poletti perché è lui che ha lanciato la proposta, poi è il ministro del lavoro Poletti, non si preoccupa trovare le risorse, ma solo di distribuirle. Siccome non sa appunto recuperarle, che fa? Dico, andiamo da quelli che hanno una pensione più alta, tagliamo un pezzo e la diamo agli altri. Ecco, questo mi sembra un'operazione da imbecilli, sinceramente. Non sto dando dell'imbecille a Poletti, è l'operazione imbecille. Però insomma, che è un'operazione di sapore antico, un'operazione che dimostra una incapacità fondamentale e anche una mancanza di preparazione economica. Le risorse vanno recuperate, ci dobbiamo preoccupare di recuperare le risorse, non di distribuirle, perché se non le recuperi devi distribuire l'esistente, e distribuire l'esistente significa commettere delle ingiustizie. Ma e quindi andare a pescare, per esempio, attraverso la famosa spending review di Cottarelli, che fine farà secondo te? Cioè, sei fatto un'idea di questa telenovela? Perché fino ad ora sono stati annunciati, addirittura già messi a copertura di alcuni provvedimenti, però di tagli veri e propri non se ne sono visti neanche uno. In sostanza l'unico taglio che è stato fatto è stato quello del tagliatore, cioè hanno tagliato Cottarelli, il quale ha fatto anche un buon lavoro, ha presentato dei documenti che sono stati accantonati, disattesi, quindi nessun taglio della spesa, e lì di tagli se ne potrebbero fare tanti, ma hanno tagliato Cottarelli, il tagliatore, e questa è la dimostrazione che siamo di fronte a una imbecillità dilagante, perché insomma arrivò Monti subito dopo Berlusconi e disse: qui bisogna fare la spending review, che peraltro si poteva anche dire revisione della spesa, ma però dicendo sono d'accordo, viva l'italiano. E poi non è successo niente. Poi è arrivata la fotocopia sbiadita di Monti, cioè Enrico Letta, persona per bene, non ce l'ho con Letta, il quale anche lui dice: ma adesso facciamo una spending review, eccetera, eccetera. E non è successo niente. È arrivato il nostro amico Renzi e dice: qui bisogna tagliare, anzi con quello che tagliamo poi facciamo questo e quest'altro. Bene, cosa è successo? Che Renzi ha speso i soldi dei tagli, ma i tagli non li ha fatti. Cioè, prima ancora di fare i tagli ha speso l'eventuale ricavato dei tagli. Insomma, siamo veramente... c'è qualcosa di alcolico anche. Staremo a vedere. Intanto grazie Vittorio Feltri, buona serata e buona estate. Grazie, ciao, presto. Ciao. Paolo che ci chiama da Bolzano, primo ascoltatore della serata. Prego. Volevo soltanto intervenire sulle polemiche del nostro intervento a favore dei curdi. Io penso che agire in Medio Oriente comunque un terreno molto instabile. I nemici di oggi sono sempre gli amici di ieri e il contrario da circa 2000 anni. Il problema è che i sensi di colpa delle democrazie occidentali non devono ovviamente impedire di volta in volta di assumersi la responsabilità delle scelte, giusto o sbagliate che siano. Faccio un esempio, mutatis mutandis, perché gli scenari sono diversi. Dopo la prima guerra mondiale le democrazie occidentali sbagliarono il trattato di Versailles, l'umiliarono la Germania e, secondo tutti gli storici, in qualche modo favorirono la reazione, la nascita di Hitler, la reazione nazionalista in Germania. Ecco, il fatto di aver compiuto quegli errori in politica però non deve impedire poi di reagire a Hitler, nel senso che comunque di volta in volta gli errori del passato non devono bloccarci le nostre scelte, ma accettare gli errori e di volta in volta assumere le responsabilità delle scelte successive, che devono essere in grado di scegliere, come spesso accade in Medio Oriente, il male minore, perché in Medio Oriente non c'è mai l'alleato ideale, come non lo erano prima i dittatori che garantivano la stabilità. Adesso l'instabilità è dovuta alla scomparsa dei dittatori, ma l'alternativa non può essere il ritorno delle dittature per garantire la stabilità. Quindi di volta in volta purtroppo le democrazie devono assumersi i rischi delle proprie scelte. Sì, scegliere il male minore è un ragionamento logico il suo. Il problema è che in questi scenari noi stessi, ma come diceva anche lei, siamo stati protagonisti, lo ha detto anche Feltri, no? Abbiamo fatto una guerra in Afghanistan. Cioè sono state le Torri Gemelle, però una guerra lunghissima, dai risultati incerti. Idem in Iraq, quindi adesso torniamo, ma torniamo in una situazione che ci ha già visto coinvolti. Quindi siamo in parte responsabili anche di quello che è successo. Se l'Iraq non è un paese stabile è anche perché l'intervento americano non è riuscito a stabilizzarlo, e quindi c'è anche da fare un po' di autocritica su questo, ma mi sembra che sia pacifico. Gli eroi del passato ci potrebbero indurre oggi a non intervenire sul campo, a non invadere, magari a non bombardare in modo sistematico. Fornire armi a chi sul campo si sta opponendo, è una scelta che è la scelta minore. Lei dice una scelta minore, sfumata in questo momento, è il male minore. Sì, grazie, va bene Paolo. Prego, prego. Buona serata. Andiamo con Domenico, che chiama da Milano. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo riprendere un po' l'intervento del telespettatore di prima e anche l'intervento di Vauro ieri, che sostanzialmente sì, dal mio punto di vista ha fatto una Macedonia concettuale anche con Di Battista, a livello anche strumentale, del concetto di terrorismo e di difesa, perché tant'è vero che ieri si metteva in dubbio anche da parte sua, mi sembrava, determinati atteggiamenti che poi si sono rivelati altamente offensivi con la decapitazione del reporter. Cioè, secondo me si sta per una finta, spirito contraddittorio che denotano interventi come quello di Vauro, si mette in dubbio un approccio veramente terroristico, che significa attaccare e creare terrore nella popolazione, non attaccare punti nevralgici per difendere un'altra popolazione, che chiaramente è brutto dire l'effetto collaterale che non deve essere accettato, però non è volontario, che crea questo tipo di danno. Cioè, non possiamo confondere i due elementi, il terrorismo con l'intervento a tutela di, che poi ci sia anche una parte. Vauro li mette sullo stesso piano, poi lui sono uguali, ci ha detto ieri. Lui ha detto le morti provocate dal Kalashnikov dei terroristi non sono diverse dalle morti provocate dalle bombe americane. Questo è il suo punto di vista. Le morti non sono diverse, ma è diversa la natura che fa decidere quelle morti. Cioè, sì, l'intervento a tutela dei poveri abitanti di quella zona, sì, che sono costretti a fuggire da un intervento militare che tende ad attenuare il punto attività. Il punto è, io l'ho già detto forse anche ieri sera, se adesso a fermare l'ISIS vanno gli americani, che sono quelli, secondo alcune analisi, che hanno sottovalutato la crescita dell'ISIS, quantomeno in Siria, o addirittura, secondo quello che ha detto addirittura Hillary Clinton, l'hanno favorito la nascita dell'ISIS, allora c'è da domandarsi come andrà a finire. Questa è la domanda, lecita forse o no? Il problema vero, sa qual è? Sì. Secondo me è un problema farisaico. Io ricordo sempre che viene condannato Gesù perché guarisce il cieco di sabato. Cioè, il concetto è che in questa società oramai l'onestà intellettuale si fatica sempre più a trovare. Quindi qual è l'onestà intellettuale in questo momento? L'onestà intellettuale, cosa bisogna riconoscere? Allora, ieri lei ha fatto una domanda intelligente a Vauro. Grazie. Cosa farebbe? E lui non ha risposto. Lui sa solo condannare e basta. Cioè, cosa sì, è vero, ha parlato ancora dei bracci rotti dei bambini palestinesi da parte di Israele. Okay, capisco benissimo, ci mancherebbe altro. Cioè, non è stata certamente una situazione felice, me ne rendo conto, e anche strumentalizzata, perché da tutte le parti, però c'è strumentalizzazione e attività di terrorismo vero e proprio. Cioè, lei dice alle strette bisogna agire, c'è poco da discutere. A questo punto bisogna agire e i ragionamenti stanno a zero. Altrimenti sì, qualcuno si impegna per iscritto a dire no, non facciamo nulla e chiudiamo le frontiere, lasciamo una sorta di recinto e vivono il loro medioevo. Anche questa potrebbe essere. Grazie Domenico, buona serata. Grazie. Claudio da Verona. Buonasera. Buonasera, semplicemente un commento veloce sull'affermazione di Feltri e anche sulla sua, sulla questione delle pensioni e sul taglio così prospettato delle pensioni alte. Sì. Io non sono affatto d'accordo con quello che dite voi, per un motivo molto semplice. Voi chi, scusi? Io voi e Feltri? Lei, sì, no, io non... lei, Lei e Feltri che siete, immagino, contrari a questo tipo di... No, guardi, io non sono contrario, io sono contrario a tagli indiscriminati, a tagli sotto una certa cifra. Io sono in disaccordo con Feltri, lui dice che è sbagliato proprio il principio di andarli a prendere. Invece secondo me, soprattutto in quelle pensioni vecchie che erano state fatte, si ricorda, se andava in pensione uno aveva uno stipendio, esatto, e andava in pensione con quella cosa, esatto, lì. È stata una follia. Esatto, la stragrande maggioranza delle pensioni, abbiamo il record mondiale di pensionati, sì, la stragrande maggioranza delle pensioni è stata calcolata col metodo retributivo, cioè un furto, un privilegio dove si dà molto di più di quello che si è versato. Un furto, un privilegio, allora era legittimo, era concesso. Allora chi è andato in pensione in quel modo, beato lui. Però se oggi a queste persone che prendono, che ne so, più di 3.000 euro netti, chiediamo un contributo, non mi sembra che ci si possa stracciare le vesti. Questa è la mia posizione. È chiaro che anche la pensione da 500 euro è regalata, perché non si schia a oggi percepisce, sì, la minima, non ha versato i contributi, ma ovviamente quelli mica puoi metterli sulla strada, qualcosa gli devi dare. Ma chi prende 3.500 euro e avrà versato per prenderne 2.000 o forse anche meno, gli si danno i 2.000, punto. Questo è il discorso. E quante risorse si recupererebbero per fare investimenti, per dare risorse ai giovani? O anche, come dice Poletti, per andare incontro agli esodati, che sono quelli che sono rimasti a metà strada tra la pensione e senza lavoro. E anche quello... Certo, pare, perché è un'informazione che è difficile da trovare, ma pare che l'INPS paghi 50 miliardi di euro l'anno, 50 miliardi di euro l'anno per pensioni che non sono che non hanno contributi. Ovviamente sono incluse anche quelle del 3.500. Vitalizi, forse. Sì, no, ma è vero anche che c'è un tema di trasparenza sull'INPS, sicuramente. Va bene, grazie anche a lei, Claudio. Andiamo con Antonio che ci chiama da Torino. Buonasera. Senta, io volevo intervenire più che altro a proposito delle affermazioni di Feltri. E quella sulle pensioni mi sembra una grossa stupidaggine, anche perché in passato ci sono stati dei casi in cui determinate pensioni, parliamo di dirigenti dello Stato e del parastato, altro che privilegi. Sono stati proprio delle operazioni truffaldine, sì, per aumentarsi i contributi, cioè diciamo la verità, altro che diritti acquisiti. Quindi lì secondo lei si potrebbe, anzi si dovrebbe andare a tagliare qualcosa. Già ci sono dei prelievi su quelle pensioni, di qualcosina aveva fatto il governo Berlusconi addirittura, se non ricordo male. Poi Monti. Non bastano. Va bene. Poi... Comunque a parte sì, quello, poi il secondo... cioè anche da parte sua la superficialità con cui è stata giudicata la questione di Battista, premetto che da parte sua mia non mi sta, sì, anche da parte sua, sì, nel discorso di Feltri, Feltri ha proprio esagerato addirittura dicendo che Di Battista simpatizzava con il tagliagole, sì. Lei ha ammesso almeno sinceramente che non è riuscito a leggere fino in fondo l'articolo sul blog. Io, sì, perché in vacanza mi sono perso il mio tempo per leggere quest'articolo, anche perché sì, Di Battista è uno che mi piace e condivido per le analisi. Sì, ma guardi, lei ha sbagliato in diritto, perché io l'ho difeso Di Battista qualche sera fa, perché ho detto che secondo me ha posto un tema quasi di buonsenso, quello del fatto di dialogare con trovare l'interlocutore da parte di quelli che vengono definiti terroristi, che saranno pure terroristi, ma bisogna dialogare. Ho fatto sentire Pannella e gli ho dato ragione, si figuri, quindi... Su questo comunque io mi riferivo a quello che ho sentito poco fa, poi sì, abbia pazienza, io non è che riesco a seguirla sempre. Comunque il discorso di fondo, il che le dicevo di Battista, l'ha ammesso anche lei, non è riuscito a leggere tutto quello che ha scritto. No, ho detto che non ci ho capito tutto, non che non l'ho letto, alcune parti della sua analisi. Non le ho capite. Sì. No, ma io le dico, l'ho letto perché avevo del tempo, perché era un articolo, sì, veramente lungo, poi scritto anche in piccolo, Feltri addirittura andare a dire che simpatizza con Italiagole mi sembra veramente una stupidaggine. Cioè è vero che ormai la maggior parte della stampa ormai usa le travi con i grillini e le pagliuzze con Renzi, no? No, ma guardi, l'hanno scritto tanti, io sono d'accordo con lei, secondo me è sbagliato dire che Di Battista simpatizza coi terroristi, può darsi che nell'ideologia grillina, nel loro universo di riferimento ci sia qualcosa di antioccidentale, come ha scritto anche qualcuno sui giornali, e quindi in quel senso non lo seguo, forse ci sono parti dell'analisi di Battista, analisi, insomma, commento, che non ho capito, o forse non ho voluto capire, però quando dice che bisogna dialogare con i terroristi, io sono d'accordo che bisogna cercare di capire prima di andare a fare l'ennesima guerra sbagliata, perché poi lo ha messo anche Feltri, in Iraq, in Afghanistan siamo in guerra da anni e non abbiamo concluso molto, quindi forse siamo più in accordo di quel che credeva lei. Non c'è una congiura antigrillina qua, Antonio? No, non voglio dire questo, vabbè. Però ci tenevo solo a precisare, poi più che altro, sì? Se vogliamo parlare anche di dialogo, una cosa che ha detto Di Battista addirittura in aula, ed effettivamente ha ragione, cioè in effetti il dialogo con questi terribili e famigerati tagliagole in effetti c'è già, perché ad esempio non ci dimentichiamo, ma se, certo che c'è già, sotto traccia c'è sempre il dialogo, c'è sempre la diplomazia, ci sono gli interessi, e questo è il punto, però poi non si può dire perché non si può dire, e questa è l'ipocrisia della politica. Grazie, buona serata. Citiamo e attingiamo a piene mani dall'intervista di Briatore al Corriere Fiorentino, che dalla Versilia torna sul tema della movida e dice: qua in Italia, della movida, insomma, del turismo soprattutto, no? Dopo l'appello del sindaco di Forte dei Marmi per rallentare posticipare la riapertura delle scuole, per risollevare la stagione. Altro che questo, dice Briatore, il problema in Italia è che è tutto proibito, non si può far nulla, per questo mancano i servizi, l'offerta per i turisti, il turismo in Italia sta diventando una esperienza monacale, e questo penso che molti, forse che hanno un'età inferiore, non lo so, vogliamo dire 50, 40, dipende, poi i parametri possono cambiare, io ne ho più di 40, però condivido, lo pensano. Chissà cosa ne pensano a Jesolo, dove c'è in corso una battaglia. Abbiamo convocato Raimondo Madonni, titolare del locale Le VIP di Jesolo. Buonasera. Locale che ha subito questa volta non un'ordinanza, ma una sentenza di un tribunale a chiudere entro una certa ora perché per schiamazzi, per troppo rumore, per un esposto dei residenti. Che è successo? È successo che siamo stati passivi di un decreto di sequestro da parte del Tribunale di Venezia, sì, per inquinamento rumoroso, assieme ad altri tre locali qui della piazza principale di Jesolo, quella, sì, la Capannina, prima fila, e Casolano. Esattamente. E per cui alla vigilia di Ferragosto siamo stati silenziati, nel senso che ci hanno tolto la musica e ci hanno limitato l'orario di apertura fino alle 2 di notte. Alle 2 di notte. E vi hanno silenziato, nel senso che non potete più mettere musica? Non possiamo più mettere musica né di notte né di giorno. Ma era molto forte, cioè qual è il problema? Questa musica fuoriusciva dal locale, le casse stavano fuori? Il problema secondo noi no, ma almeno non in qualche circostanza occasionale. Sì. Ma evidentemente poi sai, probabilmente siamo sbagliati, anche perché hanno fatto delle misurazioni, sì, tecnici, e quindi hanno rilevato questa decibel. Eccedenza di famosi decibel che davano fastidio ai nostri vicini, per cui insomma in qualche modo siamo finiti nel calderone, nel mirino della magistratura. Senta, ma voi il vostro locale, cioè, è insonorizzato, qualche misura per tamponare queste cose l'avete fatta? Al momento no, questa è una delle cose che stiamo studiando eventualmente, sì, per il futuro, assieme all'altra opzione, che è quella di cedere il locale per sottrarci a ogni tipo di polemica, perché noi siamo tipi pacifici, non vogliamo litigare con nessuno, voglio dire, no, però l'alternativa appunto a quella della vendita, se non riusciamo a trovare una conveniente cessione, è proprio quella di adottare degli accorgimenti di insonorizzazione che ci consentono di lavorare al meglio. Finora non l'abbiamo fatto, sì, semplicemente perché non avevamo cognizione esatta di quello che stava avvenendo, nel senso che ogni tanto avevamo qualche lamentela, ma è la generica così di vicine, però voglio dire non c'era una definizione, abbiamo ricevuto, sì, anche controlli delle autorità che non hanno mai riscontrato anomalie, quindi non c'era la cosa strana per l'Italia normale è che a decidere alla fine sia sempre un giudice, qualunque cosa, dalle cure che uno deve fare, stamina, fino alle elezioni regionali del Piemonte o all'apertura dei locali a Jesolo, lo stabiliscono i giudici. Perché... Ma perché purtroppo dicono che quando c'è una certa carenza, sì, delle decisioni politiche, poi c'è un surrogato, c'è della magistratura che comunque interviene a colmare dei vuoti. È un surrogato, no. Poi è difficile ragionare con i giudici, perché i giudici applicano la legge semplicemente, quindi finisce con un esposto, con una sentenza e buonanotte suonatori. Secondo lei quale, cioè al di là di questa situazione, di questa sentenza, no? Quale potrebbe essere una soluzione? Cioè la gente deve cambiare casa, ci sono molti alberghi lì vicino, sono zone troppo miste, come mai c'è questo problema? Le zone queste tutte sono zone sorte in maniera caotica negli anni 50-60, voglio dire. Quindi, cioè voi siete in un quartiere troppo popolato, forse dovreste spostare la discoteca, oppure c'è troppa intolleranza, troppa gente anziana che dorme. Allora, diciamo così che c'è un po' di tutto quello che lei ha detto, perché qui ci sono abitazioni, ci sono alberghi, ci sono locali, c'è un po' di tutto e quindi non è facile trovare il punto di convivenza, voglio dire, no? È quasi impossibile. Questo vedo che sia un problema che riguarda il valore. Qui, diciamo così, c'è il fatto che sostanzialmente, specialmente di fine settimana, sì, c'è un movimento soprattutto giovanile, voglio dire, che per la loro esuberanza, cioè in qualche caso crea evidentemente poi un... Ci sono un po' di eccessi, capita. Un eccesso di invadenza. Allora si tratta di capire se poi, perché poi il movimento di flusso dei giovani, anche ammesso e non concesso che si possa dire, diciamo, che qui non li vogliamo più qui a Jesolo, non li vogliamo più a Piazza Mazzini, sì, e si sposta un'altra parte, si sposta semplicemente il problema. Allora, beh, però a volte spostare i problemi e separare le zone può essere una cosa utile, no? Cioè si va in una zona dove si dà meno fastidio. Per un anno o due. Ammesso che sia possibile. Per un anno o due, poi dall'altra parte si risolgono puntualmente gli stessi problemi. Si potrebbe forse tentare di contemperare, voglio dire, ma noi stessi, come ripeto, se avessimo avuto cognizione preventiva, magari invece di arrivare direttamente al sequestro, ma avessimo avuto... Cioè nessuno è venuto mai a dirvi nulla? No, esattamente no. No, questo è il primo provvedimento che ci è capitato addosso ed è quello della ghigliottina, voglio dire. La novità questa volta è stata la mobilitazione notturna in vostro sostegno per avere i locali da parte di alcune centinaia di ragazzi, di persone che alle 2 di notte sono andati a urlare. Perché ho capito, ma però a me tra l'altro questa cosa, sì, fa piacere come forma di solidarietà, di vicinanza di molti nostri clienti, però mi spiace perché io non sono per le contrapposizioni. Cioè hanno aggiunto casino a casino, le dice, era meglio evitare. Esatto, non mi va poi che si crei questa contrapposizione, io non voglio litigare con nessuno. Per questo però poi... è la prima volta, a meno che io senta, che c'è una manifestazione di giovani che chiedono di poter fare, perché nello slogan, nelle cose dicevano facciamo quello che vogliamo, ora forse così è eccessivo, però una manifestazione di volontà di fare movida. Tenga conto di una cosa, che la manifestazione si è svolta dopo le 2 di notte, sì, dopo una serata passata nei locali, quindi probabilmente erano un po' alticci. Ma se non proprio alticci, ma diciamo il livello alcolometrico non era proprio 0-0, insomma, ecco, mettiamola così, quindi qualche eccesso è spiegabile anche così. Poi sai, quando si è in molti, e questi erano in 300-400, cioè, basta vedere quello che succede poi negli stadi, ovunque c'è una... Vabbè, insomma, comunque avete incassato questa solidarietà, magari scontata, magari un po' alcolica da parte dei ragazzi. Però senta, le voglio chiedere questo, lei come anche briatore gestisce un locale, condivide il fatto che lui dice in Italia il turismo sta diventando per i troppi divieti un'esperienza monacale, cioè proprio da gente ritirata? Ma gente ritirata, il discorso è questo, che Jesolo, almeno per quanto riguarda la situazione di Jesolo, a 30 km di costa, Sì. Secondo me già oggi sarebbe possibile, ma si possono tranquillamente individuare delle zone, diciamo, a diversa invadenza. La diversa invadenza di rumore, voglio dire, non nel senso che ci possono essere delle zone dove va la gente che vuole stare tranquilla, vuole riposare dalle 9 di sera e non avere nessuna intrusione, a delle altre zone invece dove la gente è più portata a fare festa, diciamo così. Quindi vedi, si torna alla teoria delle zone, cioè bisogna zonizzare, che parola orrenda. Però voglio dire, probabilmente l'unica soluzione è quella, anche perché poi la zonizzazione, come la chiamano, sì, comporta anche dei diversi risvolti di tipo economico, per chi affitta degli appartamenti, per chi fissa i prezzi appunto delle camere, degli alberghi, per chi, e comporta anche poi delle altre iniziative, per esempio in una certa zona che magari è definita un po' più tollerante verso i rumori, probabilmente gli alberghi dovrebbero avere dei sistemi di resistenza passiva verso le intrusioni rumorose un po', diciamo, più efficaci rispetto a quelli che invece sono richiesti in una zona tranquilla. Comunque, insomma, lei questo rischio, diciamo, di ridurre l'esperienza del turismo a una cosa da monaci, non è preoccupato. Io non ho un'esperienza tale come quella di Briatore, per carità. Certo, puoi chiederlo a lei, che ha un locale dove si fa musica. Lui ha un pulpito diverso, esatto. Vede le cose in maniera diversa, per cui, per carità, insomma. Va bene, insomma, in bocca al lupo per Jesolo, non tanto a voi, cioè anche a voi sicuramente il vostro locale, ma anche a tutti. La ringrazio. Grazie, buona estate, buona serata. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Si può fare! L'attualità, anche d'estate. È a rischio innanzitutto la vita di civili, cristiani, yazidi, musulmani, tantissime persone. Credo che sia un dovere politico, ma innanzitutto morale, rispondere a questo dramma umanitario. È a rischio anche la stabilità già molto compromessa di una regione che per noi è strategica e che per noi è vicina, parliamo del Medio Oriente. È a rischio la sicurezza internazionale, a partire dalla sicurezza delle nostre stessi territori dell'Unione Europea. Parola del ministro degli esteri Federica Mogherini oggi al passaggio parlamentare che ha dato il via libera a fornire armi ai curdi. Parole che però, abbiamo già detto, non si parla di necessità morale, di necessità strategica, del fatto che il Medio Oriente è vicino, cosa che abbiamo sentito dire mille volte, non molto però per noi affamati di capire che cavolo sta succedendo in Iraq. È facile sicuramente dire sì, l'ISIS sono dei terroristi, stanno massacrando le persone, sì, ma noi cosa andiamo a fare? A dare le armi ai curdi? Per fare cosa? Quelli che diventeranno i nostri nemici tra 5 anni, forse, chi lo sa? Parole quelle del ministro Mogherini che, ma come sempre, spesso in questi passaggi parlamentari non aiutano molto a capire che cosa sta succedendo. Giudizi a confronto, quello di Giorgia Meloni e di Vauro. Abbiamo fatto sentire anche prima Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che fra l'altro lancia una campagna col braccialetto bianco con la N di cristiani in arabo, per testimoniare solidarietà ai cristiani massacrati. Queste sono le notizie che arrivano dall'ISIS. E invece Vauro, che ovviamente la pensa all'opposto e dice, insomma, siamo stati corresponsabili in questi anni. Ma l'ha detto anche Feltri, che abbiamo intervistato in apertura: guerre fallimentari, quelle europee e occidentali, in Iraq e in Afghanistan. Cominciamo con la Meloni. In Iraq in queste ore gli integralisti dell'ISIS stanno compiendo un vero e proprio genocidio ai danni di tutte le minoranze etniche e religiose. Tra queste, come tristemente avviene in molte altre parti del mondo, ci sono i cristiani, che vengono perseguitati, mutilati, torturati, uccisi se non accettano di rinnegare la fede cristiana per convertirsi all'Islam. Pensavamo che questo genere di immagini riguardasse un tempo che non c'è più, il Medioevo, secoli fa, e invece sta accadendo proprio in queste ore e noi non possiamo far finta di non vedere. Noi abbiamo fatto guerre in tutto il Medio Oriente, abbiamo destabilizzato tutta quell'area a suon di bombe, di bombardamenti, di strage e di massacri a cui ho assistito, per cui nessuno mi può dire che sto mentendo. Cioè, vorrei che qualcuno mi dicesse qual è la differenza, se c'è una graduatoria del terrore. Io credo che la guerra sia il terrore e il terrore sia la guerra, sono sinonimi. E intanto le dichiarazioni del presidente americano Barack Obama, che sembra George Bush quando dichiarò la guerra appunto a Saddam Hussein. L'ISIS non ha nessuna ideologia di qualsiasi valore per gli esseri umani. La loro ideologia è fallita. Nessuna fede, ha detto Obama, insegna alle persone a massacrare innocenti. Nessun Dio potrebbe sopportare quello che hanno fatto ieri e quello che fanno ogni giorno. Così Barack Obama, che ripeto, sembra si sia trasformato, parole durissime che non aveva mai pronunciato, credo, in 6-7 anni di presidenza. La strada dei bronzi di Riace verso Milano prosegue. L'abbiamo già incontrato Franceschini prima dell'estate, abbiamo parlato di questo e io l'ho incontrato, già tu non ero con in quella volta lì, e lui ha detto che entro l'estate avrebbe fatto la valutazione. Noi lo rincontreremo all'inizio di settembre, per poi all'inizio di settembre lo rincontrerò a Roma per capire quali sono i tempi, ma devono essere rapidi. La sovrintendente, la quale nega che si possano muovere perché sono fragili, ha voluto fare un restauro nei termini che forse secondo vi leggo. Aggiungo che sulla vicenda, pensare che abbia una titolarità alla tutela una persona che ha fatto fotografare travestiti bronzi, essendole complice, facendo finta di non saperlo, ora provate voi ad andare in un museo a mettere delle mutandine e a mettere un preservativo a una scultura, vi fermano. E come non vi fermano? Se siete autorizzati. Quindi lei è come un genitore geloso di una figlia vergine che non la mandi alla sera fuori e poi gliela scopano a casa. Cioè, che tutela può dare una che non è capace di controllare i bronzi neanche a casa sua? Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. E l'ombrellone questa sera lo andiamo a piantare là dove sta facendo le vacanze Enzo Miccio, buonasera. Buonasera, come stai? Siamo venuti a raggiungerti, non ci devi svelare dove sei in vacanza, ma sei in vacanza e noi ogni sera a quest'ora andiamo un po' da tutte le parti a trovare i nostri amici. Enzo, sì, eccomi qua. Allora, ne abbiamo parlato prima quasi anche seriosamente con Vittorio Feltri, perché oggi il giornale addirittura dedica l'apertura nudo di governo, il topless del ministro Giannini. Se a questo sommiamo il bikini dell'altro ministro, Maria Elena Boschi, a fare un'affermazione, governo in mutande, ma proprio letteralmente, secondo te questa cosa qua, cioè è ammissibile, oppure un tempo c'era un decoro diverso? No, devo dire che io non vedo il perché di tanto scalpore, ecco. posso essere molto franco, io non, di solito sono più un po' rigido, un po', come dire, su certe cose mi piace la tradizione. Infatti speravamo quasi che tu dicessi che no, che non è giusto il decoro, bisogna stare più attenti, invece sei... No, ma io credo che se il topless, facciamo per esempio il topless, lo si porta con naturalezza e con eleganza, non è assolutamente inammissibile, soprattutto se si ha un fisico tonico, un bel seno, eccetera, di proporzioni armoniose. Stiamo parlando comunque di una il ministro Giannini, che non è proprio neanche giovanissima, però voglio dire è una signora che ha un topless decente, un topless che nella sua privacy, il problema non è tanto secondo me su questo Giannini. Però c'è qualcuno che perché Feltri ha detto che secondo lui non se lo può permettere proprio brutalmente. No, poi posso dire una cosa, sì. io non vorrei andare a come dire a sollevare una cosa che non esiste, secondo me il ministro Giannini nella nella sua intimità poteva esibire il suo topless. Il problema è che c'era qualche obiettivo indiscreto. Esatto, è questo concetto di intimità che è esatto, questa intimità che poi era successo con Kate qualche mese fa, è successo con tante persone che sono state trovate in mutande piuttosto che in topless. Ma io credo che in ogni caso sono della scuola anch'io che l'eleganza non va mai esibita, non va mai urlata e le nudità eccetera, però in questo caso parlo di un momento intimo della Giannini, perché alla quale probabilmente non piace il segno del costume e vuole essere libera di prendersi il suo sole in topless da parte, nonostante sia una ministra, perché io non trovo nulla di volgare in tutto questo, se è, ripeto, esibito, portato con naturalezza. Quindi tu dici il ruolo non conta, conta diciamo l'eleganza e la naturalezza, poi se uno è un ministro, una persona il ruolo conta nel momento in cui è nell'esercizio della sua funzione. Altrimenti no, giusto. Altrimenti no, è privacy, scusatemi, non potete anche vincolare la mia privacy, la mia libertà, la mia vacanza. Certo, se poi uno va e gli fa la foto va bene, però cioè, il giornalista fa lo scoop, tutto quello che volete, però lei era diciamo nel suo stabilimento balneare tra i suoi familiari e non è che stava facendo il ministro in quel momento lì, ci mancherebbe anche. Soprattutto. Senti, tu vabbè, conduttore di ma come ti vesti, su Real Time, poi l'eleganza del maschio, ti vogliamo chiedere anche qualcosa sul Renzi Style, se esiste nell'eleganza Renzi Style. Però prima, a proposito di Renzi, di vacanze, allora c'è Grillo che è in Sardegna, Berlusconi vabbè, ad Arcore per note vicende giudiziarie, ma ha fatto sempre le vacanze anche lui in Sardegna. Salvini per esempio ha fatto le vacanze a Cervia in Riviera Romagnola. Cioè, cosa leggi dietro a queste cose? Perché Renzi invece ha deciso di andare in Versilia, che è una località di un turismo di un certo tipo, anche abbastanza raffinato, però un po' snob. Snob, come la vedi? Che cosa comunica? Cosa ti comunica? Voglio dire, Renzi è, voglio dire, 100% toscana style, non poteva andare via non poteva tradire la Toscana, via dalla Toscana, e naturalmente in Toscana ha scelto il posto più chic, più in, che vive ancora nei suoi successi e sugli allori degli anni 60. Perché Prodi andava a Castiglion della Pescaia, che è una cosa più da famiglia, un pochino forse un po' più family style, un po' più understanding, cioè voglio dire un po' sottotono, sì, insomma. Sì. E invece Renzi era un po' buone, più giovanile, dove c'è più movida, sì. Col suo look, si piglia la sua capanna e voglio dire, anche lì mi sembra che non ci sia nulla da ridire, anche perché sembra e spero spende i suoi soldi, voglio dire. C'è una polemica su questo, qualcuno forse addirittura ha fatto un'interpellanza, non so, perché qualcuno è andato a indagare quanto spende in camera d'albergo, mi sembra anche qua un filo eccessivo, nel senso che, voglio dire, se gli dovessi dargli io, tu e qualcun altro, allora potrei... Se no fa quello che gli pare, potrei obiettare, ma se in qualche modo se li guadagna o meno, questo poi è opinione personale nel quale io non ci voglio neanche entrare, però se questo signore ha nelle sue tasche la possibilità di spendere 1600 euro a notte, io sono ben felice che lo faccia, ma sai perché? Perché questi 1600 euro aiuteranno a dar lavoro a un sacco di famiglie negli alberghi, negli stabilimenti, nei ristoranti, bla bla bla, perché se queste persone che possono permettersi 1600 euro spendono a notte se le tenessero in tascoccia, noi abbiamo finito l'economia, probabilmente si bloccherebbe. Senti, ma è questo Renzi Style nell'abbigliamento, esiste questa jeans, la camicia, un po' di fisico semi-fisicato, perché adesso c'è di nuovo un po' di pancetta, oppure no, secondo te? Allora io ti dico, sotto certi aspetti devo dire, questo mi tocchi una nota un po' dolente per quanto mi riguarda, perché voglio dire, tanto permissivo fino adesso, però sono un po' rigido su altri sensi. Finalmente. Nel senso che no, il dentino è piuttosto avvelenato, se io sono rappresentante dello Stato devo rappresentare un governo e poi l'Italia, in nazione dove il 100% dello stile italiano è riconosciuto a livello mondiale, io vorrei che nel momento in cui io esercito le mie funzioni fossi, come dire, un filo più impeccabile. Esatto, io non ti dico che devi presentarti col panciotto, ma ti dico che devi presentare mi piacerebbe che un mio rappresentante, uno che rappresenta l'Italia, si presentasse con la giacca, insomma. Berlusconi da questo punto di vista era impeccabile in genere. Impeccabile, voglio dire, mai una fiera fuori posto. E devo dire che ad una tavola rotonda con i capi di Stato della portata di Obama se è l'unico a comparire molto spesso con la camicia. Io capisco il suo essere informale, il suo nuovo modo di far politica, eccetera, eccetera, però credo che un minimo di etichetta, che non la chiamerei neanche etichetta, la chiamerei stile, cioè modo di presentarsi, educazione, non educazione perché lui è maleducato, educazione nello gusto, e quindi mi piacerebbe che in questo caso fosse un po' più, come dire, rigido, insomma. Senti, ma la tunica che aveva la Merkel l'hai vista? Quella che lei che dice che ci sono delle foto che risalgono a 18 anni fa. La stessa tunica, lei si vede, è una che la spende in review. È una conservatrice lei. È una conservatrice. Voglio dire, è una conservatrice, è un amante del vintage, fondamentalmente. Poi anni lei 70, ha questo, questo fisico da tronco, se lo ritrova già da diversi anni, quindi non ha dovuto subire, come dire, il problemi di ingrasso e fisico. Cioè era già così, dice, implacabile già il suo vizio. E quindi lei si ha il suo guardaroba che non va cambia, avanti così, giustamente. Senti, una cosa semiseria, questa oggi su Repubblica, una pagina: sdoganati Bermuda e l'infradito per andare a lavorare in alcune aziende milanesi, che per la comodità e addirittura si dice per la creatività, perché uno si sente più libero e più creativo. Ecco, dipende di che lavoro stiamo parlando, perché voglio dire, il Bermuda è sicuramente un outfit da spiaggia, ok? Proprio spiaggia, in città non devono neanche comparire, io li tiro fuori solamente quando sto partendo. E allora, e l'idea di poter andare al lavoro, un posto dove, come dire, vendi quello che sei, e purtroppo io sono un sostenitore che l'abito fa il monaco, insomma, sì. C'è una certa etichetta, un certo rigore sul posto di lavoro. Poi voglio capire, dipende forse anche dai lavori, cioè se uno ha contatto col pubblico assolutamente no. Esatto, se sei al contatto col pubblico è rigoroso, doveroso, come dire, insomma, avere un certo contegno. Se sono chiuso in ufficio e faccio il creativo, ma a quel punto posso rimanere anche a casa mia a disegnare la mia scrivania e mi metto in tuta, voglio dire, però l'importante è che io non ti veda, capito? Sì. Tu puoi essere creativo come ti pare, ma nel momento in cui ho un contatto con il pubblico, una riunione di lavoro, un consiglio di amministrazione, la finanza, nelle banche o anche il commesso semplicemente in un negozio, non mi posso permettere di essere con i sandali infradito e il Bermuda, quello proprio non lo ammetto. Senti, noi stiamo seguendo con particolare passione la vicenda dei bronzi di Riace, questa idea di portarli a Milano da Reggio Calabria per Expo, una proposta fatta da Vittorio Sgarbi che si è scatenato accusando tra l'altro la sovrintendente, che non li vuole mollare questi bronzi di Riace, del fatto, non so se hai saputo, questo fotografo che ha fatto le foto, hanno girato il mondo con i bronzi di Riace in perizoma, un momento diciamo stilisticamente basso secondo te o una grande pubblicità per i bronzi? Cheapissimo, un momento veramente basso, cheap. No, cheap, non abbiamo bisogno di farci conoscere, cioè i bronzi di Riace non hanno bisogno di questa pubblicità, stiamo parlando di un patrimonio veramente alto, bellissimo, cioè credo che siano i deretani, i sederi più belli al mondo che esistano. Quindi dai ragione a Sgarbi su questo. Ma al 100%, adoro Sgarbi, quello che dice, una persona di grande cultura, mi piace nel modo in cui lo dice, nel modo in cui lo sostiene, e quindi se venissero veramente a Milano per l'Expo sarebbe veramente, quello sì che sarebbe un colpo per far conoscere i bronzi di Riace, non mettergli degli slip e fare delle foto inutili, ridicole, insomma, perché dobbiamo diventare così ridicoli agli occhi del mondo? Questo mi fa veramente incavolare. Va bene, grazie, ciao, buone vacanze, buona estate, buona serata, arrivederci. Ciao Enzo Miccio, andiamo con Franco Bolelli, vai. Tempo. E te ne frega se qualcuno è in ritardo. Ciao Franco, buona serata. Ciao, buona serata. Non ti ho mai essere introdotti dal mio meraviglioso colto. Lo so, non so, ti ho mai chiesto se è una delle tue preferite di Jovanotti oppure se ce ne sono altre. A me piacciono di più le ballate di Lorenzo, quelle più classiche, però sì. Lorenzo è fantastico in tutto. Va bene anche questa. Senti, l'altra, dunque, la faccio un piccolo riepilogo io, perché siamo partiti con Don Winslow, poi siamo passati da Nietzsche, così parlò Zarathustra, e anche con la mia avventura personale mi sono gettato in questa lettura estiva, scoprendo che è un libro che si può e che ha da dire. Avevi detto, mi piace perché è un pensiero, dice Nietzsche, che va bene anche per i muscoli, questa me la sono segnata, bellissima. bellissima. E poi l'altra settimana Abis, non so se si pronuncia così, di Simone Regazzoni. E quindi adesso dove ci porti stasera? La settimana torniamo ai muscoli. Anche che in realtà sono in difficoltà, nel senso che il libro, parliamo di sport. Sì. Perché lo sport per me non è intrattenimento, quella roba lì, ma è un'esperienza formativa assolutamente straordinaria e imprescindibile. Però ho un problema, nel senso che il libro che secondo me bisogna assolutamente leggere deve ancora uscire. Esce a novembre, quello di Federico Buffa, che è nettamente il miglior narratore che c'è in Italia sui mondiali di calcio, ma bisogna aspettare. Oppure ce n'è un altro meraviglioso, le 700 monumentali pagine della biografia di Michael Jordan, messo lì in inglese. E allora me la cavo con Dream Team, che è un libro uscito un anno fa di pura mitologia, che racconta la più grande squadra sportiva mai messa al mondo, sì, quella americana di basket delle Olimpiadi del 92, per intenderci Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson e tutti quegli altri, mai visto un gruppo di atleti simili giocare insieme, e lo racconta dal punto di vista mitologico, non sportivo, perché sportivamente fu una passeggiata, ma racconta la formazione del gruppo, le dinamiche, i personaggi, e lo racconta come se fosse una riunione degli dei dell'Olimpo, con gli scherzi, con i punti di forza, con le loro debolezze, con i problemi personali, con la formazione del gruppo. Ed è veramente un racconto assolutamente straordinario. Si chiama Dream Team, è di un giornalista americano, si chiama Jim McCallum, ed è uscito qualche tempo fa per Sperling & Kupfer. Mm-hmm. E quindi Dream Team è il titolo? Sì. Benissimo. E credo che è una storia di mitologia, a me appassiona perché è una storia di mitologia. Senti, è veramente Franco, come se Omero ci stesse raccontando quella storia là. Io con te ho un problema adesso, devo dirlo, perché questo è il consiglio e va bene, però noi ti abbiamo chiamato per questo, ma tu con i tuoi post su Facebook, con il tuo modo intelligente di animare la polemica e anche le analisi, e la, diciamo quello che sta succedendo adesso per esempio in Iraq, oggi il Parlamento ha appena votato, mi costringi a farti una domanda su questo, lo sai? Perché... Spara. La domanda è questa, molto semplicemente, di spiegarci perché tu hai preso una posizione molto netta, ho letto oggi, sul perché assolutamente è giusto, oggi il governo, il Parlamento lo ha fatto, bisogna andare a intervenire in questo contesto di guerra, non hai dubbi, la tua logica, la tua capacità di descrivere questa cosa, anche se io non sono molto sicuro che sia giusto andare, perché ne abbiamo parlato prima anche con Vittorio Feltri, con cui anche non vado d'accordo, però ha detto guerre fallimentari quelle in Iraq e in Afghanistan, perché invece secondo te bisogna andare e fare? Non è una bella cosa, cioè non vorrei che ci fosse lo schieramento di quelli guerrafondai contro quelli pacifisti, perché sarebbe una caricatura, non è di questo che si tratta, nessuno credo sia favorevole a un intervento perché bisogna intervenire, è perché è l'unico modo per fermare una situazione che altrimenti sta provocando una vera strage, massacri, donne stuprate, vendute, eccetera eccetera, ogni quarto d'ora. Allora, l'unico modo per fermarlo, se vogliamo fermarlo, non passa né per la pace, né per le trattative, né per tutte cose sacrosante, che però richiedono tempi lunghissimi. Sempre ammesso e non minimamente concesso che sia possibile parlare di pace con chi invece ti dice no, io voglio la guerra santa, e questo però è un altro argomento. Io sono convintissimo che in questo momento non c'è altra possibilità se si vuole andare in soccorso di gente che sta veramente subendo uno sterminio e che non ha la possibilità di difendersi da sé se non in casi isolati. Allora, è chiaro che l'episodio della testa mozzata del povero ragazzo americano è quello che probabilmente fa più scalpore, sì, anche perché è stato documentato in una maniera così cruda da rendere, ahimè, purtroppo emblematico quello che sta succedendo. Però è veramente la sorte delle donne vendute per lo spasso dei jihadisti come schiave, in una situazione in cui l'Occidente ha pochi passi. Allora, o noi permettiamo questo, mm-hmm, perché diciamo, ahimè, sono le vittime di una situazione e ci si può fare poco, oppure ci deve essere qualche modo per intervenire e provare a bloccare questa situazione. Io vado per la seconda ipotesi, perché la prima, cioè quella di creare troppi distinguo, mettere in campo trattative probabilmente giuste, sane, ma sulla lunga prospettiva, non mi risolve il qui e ora drammatico di migliaia di persone. Però io ti faccio questa domanda, ti seguo in questa logica: di fronte all'azione, alla minaccia, alla violenza, l'ha detto anche il Papa, è giusto cercare di fermare, bisogna fare qualcosa, e questo qualcosa non può essere altro che andare a menare le mani, perché a parole sicuramente con uno che ti viene addosso col machete non risolvi nulla. Però non ti preoccupa il fatto che a sedare questa situazione, a fermare l'esercito dell'ISIS, vada l'America, l'Occidente, vadano le stesse persone, la stessa logica diciamo di guerra che in qualche modo ha creato, ha favorito la nascita dell'ISIS in Siria, laddove per buttare giù il regime di Bashar al-Assad è stato consentita la nascita, in qualche modo tollerata, cioè gli errori del passato. In quello scenario dell'Iraq noi non siamo vergini, ci siamo già, e qualche errore l'avremo pur commesso. Sì, gli errori sono stati commessi tanti, però io credo che bisogna, come dire, togliere un po' di peso a quella che rischia di diventare una leggenda. Cioè, dietro alla Jihad c'è innanzitutto il Qatar, ci sono innanzitutto il petrolio degli arabi. Che ci sia dietro l'Occidente può essere stato vero in passato, ma mi sembra non più vero oggi. È una battaglia combattuta contro gente finanziata dal petrolio, non per ottenere il petrolio e l'Occidente, come è sempre stato detto. E questo mi sembra il punto fondamentale. Allora, l'Occidente ha un mucchio di colpe, non stiamo neanche a discuterne, è ovvio che ha un mucchio di colpe. Ha fatto una quantità di errori assolutamente incredibile. Ma oggi basta dire abbiamo fatto errori, dunque stiamo attenti. Certo che dobbiamo stare attenti. Però quella del dire il problema è che siamo gli stessi che abbiamo provocato i guai, e purtroppo non risolve il problema delle migliaia di persone che quotidianamente, a cui va bene tutto in questo momento. Non è che sia uno schieramento ideologico, a quelle persone per salvare la pelle va bene tutto, perché altrimenti non salvano la pelle. Qualcuno ha detto, scusa, con una battuta ironica su Twitter, l'ho già detta, diamogliele incomodato d'uso gratuito le armi ai curdi, perché sennò rischiamo che tra 5 anni diventano il nostro nuovo nemico. E questo potrebbe essere. Sono rischi che in certi momenti della storia si corrono. Io sarei meno preoccupato, come dire, di un problema che può essere tra 5 anni, visto che ne dobbiamo risolvere uno immediato. Non che bisogna essere ciechi di fronte a quello che succederà domani, ci mancherebbe altro. È ovvio che occorre una visione strategica. L'intervista di settimana scorsa di Hillary Clinton era emblematica, sì, perché lei diceva noi dobbiamo stare attenti perché abbiamo commesso degli errori a non appoggiare chi dovevamo appoggiare in certi momenti. Credo che questo sia stato l'errore fondamentale, cioè quello di non potenziare davvero chi è un vero avversario oggi dell'avanzata jihadista da quelle parti. Sono errori non da poco, sono errori che adesso si pagano con la necessità di un intervento che sarebbe meglio evitare. Per oggi è così, c'è poco da fare. Speriamo di non commetterlo di nuovo in futuro. Intanto sarebbe meglio. Vediamo. Grazie Franco. Grazie. Franco Bolelli, buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao, a settimana, grazie. Prossima. Ciao. Abbiamo ancora gli ascoltatori naturalmente all'800240024 in vista dei titoli dei telegiornali. Cominciamo con Adriana che chiama dalla provincia di Reggio Emilia. Buonasera. Adriana si è distratta, starà girando il risotto a quest'ora. No, forse no, d'estate non si fa il risotto. Adriana? Niente. C'è? Eccola. Prego. Pronto? Adriana, tocca a lei. Sì, coraggio. Va bene, allora, siccome c'è stato un commento che i bronzi giliaci sono greci, malgrado anche per alleggerire questi, i problemi sono pazzeschi, per mettere in evidenza con l'Europa del Nord che gira dall'altra parte, la Magna Grecia era la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Campania, quindi sono greci ma sono anche italiani. Quindi viva i bronzi di Riace, perché sono un simbolo comunque della Grecia, ma della Magna Grecia, lei dice, perché in effetti l'origine è sicuramente quella, e quindi insomma il sud dell'Italia, va bene. Adriana, perfetto, va benissimo, anche interventi che rafforzino il concetto sgarbiano che comunque ha già fatto breccia di suo. Maria Teresa da Napoli, buonasera. Ah, buonasera. Senta, io vorrei ritornare sul discorso delle movide, più che delle discoteche. Il signore di Jesolo mi è sembrato di una correttezza, di una sensibilità notevolissima e civilissima. Ah, è bello che lo dica, perché lui, essendo il gestore della discoteca, poteva invece essere visto come... No, una persona corretta, ecco, quale si rendeva conto che dà fastidio, perché il sonno è una funzione naturale. Il sonno è una funzione naturale. Beh, certo. Impedirla rientra nelle torture. Sì. Non si capisce perché deve essere visti benevolmente individui che passano la notte a impedire agli altri di dormire, gli altri della mattina. Ma non è loro che passano la notte a impedire agli altri di dormire, passano la notte a divertirsi, a fare un po' di musica, a ballare nei locali. Gli altri svegli, lei come lo considera? Ma no, considero che è un problema, non considero cattiva la persona che si vuol divertire, non è che si fa con intenzione, è un problema, questa convivenza è un problema e bisognerebbe trovare dei modi per risolverlo, questo penso, Maria Teresa. Grazie comunque anche a lei, buona serata. Romano da Trento. Buonasera. Buonasera. Io tornerei sul tema delle pensioni e dei prelievi ai pensionati cosiddetti d'oro o d'argento. Sì. Io godo di una buona pensione. Non ho nulla in contrario, sì, che lo Stato mi prelevi qualche cosa se ciò giova a risolvere il tutto. In parte. Posso chiedere quanto prende lei di lordo? Posso chiederglielo? Di lordo? Sì. Diciamo che prendo 4.000 netti. Ah, vabbè, quindi è una bella pensioncina. Sì. È una bella pensione, sì, certo. Non ho nulla in contrario ad un prelievo sulla mia pensione. E se ciò serve a risolvere il problema o ad alleviare il problema degli esodati. Grazie, intanto quello lo dico che, a nome degli esodati, grazie. Quello che non mi sta bene, sì, è che nel prelievo si privilegino i pensionati. Sì. Io troverei corretto che analogo prelievo fosse fatto, sì, a carico del lavoro dipendente dello stesso di pari reddito. Cioè, se chi ha un lavoro dipendente, un lavoro autonomo, attività di impresa, lei dice il reddito, 4.000 euro, sì, come me. Lei dice il reddito è reddito e quindi chiunque lo percepisce, se bisogna fare un prelievo di solidarietà va fatto a tutti. Però mi scusi Romano, lei ha la pensione, è andato col sistema vecchio, quello retributivo o col contributivo? Mezzo e mezzo, diciamo. Mezzo e mezzo. Perché c'è una differenza tra chi oggi lavora e prende 4.000 euro netti e chi è andato in pensione anni fa con un sistema che consentiva, se l'ultimo stipendio era di 4.000 euro netti, di andare in pensione con quello stipendio, che era un privilegio che oggi non se lo sogna più nessuno. E quindi su questo, come dire, cioè, è più normale che si possa pensare di fare una differenza con i redditi, ha capito cosa voglio dire? Ho capito, però mi pare che già la Corte Costituzionale l'abbia detto che è un prelievo. Lo so, la Corte Costituzionale dice tante cose, secondo me ogni tanto dice anche qualche cosa che non va bene, però va bene Romano, comunque diciamo lei aggiunge questo elemento alla discussione, grazie. 4.000 euro netti però, scusi, c'è ancora Romano, che lavoro faceva lei? Giornalista. Eccolo là, vede, noi facciamo lo stesso lavoro, ma io col cavolo che, ma non ci arrivo nemmeno con lo stipendio a quello che guadagnerei come pensionato, ha capito? Questo è un po' il discorso. So. Ma io ho 72 anni. Io no. Ho versato 40 anni di contributo. Ma io quando avrò 72 anni forse starò ancora lavorando, perché dovrò lavorare 45 anni di contributi, non lo so. Lo so. È questo. Sono mutati i tempi, è vero. È vero. Però, e quindi su questo si impone forse una riflessione. Però io voglio prendere il suo punto iniziale. Lei ha detto io sono disposto, perché è giusto se questo può aiutare. Ecco, questo mi sembra il punto. Se può aiutare qualcosa, qualcuno, diamoli agli esodati. Sì, ma diamoli veramente agli esodati. Non li mettiamo nel calderone che poi non si sa più che fine fanno. Ministro Poletti, questo è un appello. Del resto lui l'ha detto, che vuole fare così. Pasquina da Ferrara. Sì, buonasera, ai curdi, e poi se mi lascio anche un po' di tempo, piccolo, per il Renzi Style e anche l'Agnese Style. Sì, allora facciamo prima, partiamo prima da Renzi Style, che almeno allora, ci divertiamo Renzi un style, po'. Insomma, io devo dire che come abbigliamento lascia molto a desiderare, perché ha le maniche lunghe, non gli si vedono i polsi, cosa veramente inelegante. No, aspetti, poi un momento, ha le maniche strette, ha le gambe strette, lunghe. Non ho capito nulla, scusi, ha le maniche lunghe ma non si vedono i polsi, cioè la camicia deve uscire dalla giacca. Ecco, questa è l'eleganza maschile. E lui non lo fa questo, ma lei è un'osservatrice, come ha fatto a accorgersi? Io non l'avevo mai vista questa cosa. Sa, io osservo, sono vecchia, sto lì e guardo, perché si vede che il salto che gliene fa non gliene accorcia, non lo so, insomma. No, è vero, la camicia, il polsino della camicia deve uscire un po' fuori dalla giacca. Dire, ecco, questo è vero. Qui ha poi anche i gemelli, fa anche vedere i gemelli, ma lui. Vabbè, non è tipo da gemelli, Renzi. Poi i pantaloni troppo stretti. No, i pantaloni non commento. Per quanto riguarda invece la giacca, lui è sempre lì che bottone, ma... perché ha le giacche troppo strette. È vero, secondo me è vero, perché ha messo su di nuovo qualche chiletto. Ha messo su qualche chiletto, Pasquina, questo è il punto. Quindi... poi, senza cravatta, con quel collo taurino, sta malissimo. Ma lei l'ha distrutto, Renzi, me l'ha distrutto. Collo taurino, è un po' inquartato ogni tanto, però è uno che fa sport. Con quella schienona, quando è in camicia, guardi, con quella schienona, perché ha i pantaloni bassi, è orrendo, orrendo. No, aspetta, scusate, cioè, cosa vuol dire i pantaloni bassi? A vita bassa? Beh, sì, a vita bassa. Allora la schiena sembra ancora più lunga, no? Perché è alto. Cioè, la schienona? Renzi ha la schienona. Ma lei cosa ha votato alle elezioni, Pasquina? Io Forza Italia. Ecco, piacendomi all'inizio, Renzi, mi piaceva molto anche per la parlata toscana, mi ricordava Dante, così. Poi pian piano, proprio anche politicamente parlando, adesso le parlo della moglie e poi dopo le parlo delle armi. Vuol parlare anche della moglie di Renzi? Sì, perché la signora è sempre molto elegante e va da un sarto cervino, bravo così. Però direi che siccome lei quando è insieme al marito, nelle occasioni grandi, ufficiali, e rappresenta l'Italia, dovrebbe vestire anche altri sarti, perché... dopo lo dicono, sanno in pettegolezzo, la moglie del presidente era vestita da tal sarto, deve fare un po' propaganda a tutti i sarti italiani, insomma, devo essere quello. Vabbè. Che ha, la veste bene, è bella, insomma, quindi la signora starà bene con tutti gli stili di tutti i sarti e dovrebbe dare a tutti la possibilità di essere citati come... ma scusi, ma non può avere un suo sarto di fiducia, non si può... chi era? Berlusconi che si faceva fare le camicie sempre da quello... Ma io esprimo il mio pensiero perché penso all'Italia. Va bene, Pasquina, va bene, hai ragione. Per l'Italia è un orgoglio che una volta si citi un sarto, si citi l'altro, ne abbiamo tanto bisogno di vedere. Va bene, senta Pasquina, lei è sicura che vuole parlare anche dell'Iraq? Perché secondo me lei fino ad ora è andata benissimo, eh? Questo, io sono favorevole all'intervento, però facciamo la figura dei pitocchi, gli diamo dei fondi di magazzino, delle armi che sono là ferme da 20 anni, ma dico io... È vero, sono armi anche vecchie, è stato detto, erano lì, non sapevano cosa farci, l'hanno data ai curdi. Grazie. Sentiamo al volo anche l'inizio, i titoli del TG1 e poi torniamo con gli ascoltatori, vai. Renzi in Iraq, l'Europa non volti le spalle ai massacri, è in atto un genocidio delle minoranze, batteremo insieme i terroristi. Via libera del Parlamento all'invio di armi ai curdi, Mogherini, dovere morale difendere i civili, allarme per la sicurezza in Italia. La vendetta degli islamisti per i raid USA, in un video shock la decapitazione di un giornalista americano, Obama avrà giustizia. Scontro tra tornado, nessuna speranza per i piloti, due corpi recuperati, la storia di Mariangela che diceva quando volo non ho paura. Domani l'interrogatorio dell'uomo che ha accoltellato la figlia di 18 mesi, i medici ha confessato, una voce mi ha detto di ucciderla. Nell'area archeologica di Kuma, gioiello rovinato dal degrado, pochi luoghi visitabili, chiusure per crolli e lavori mai cominciati. Trionfi azzurri agli europei di nuoto, medaglia d'oro per Tania Cagnotto nel trampolino da un metro e per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. Nella stessa gara bronzo per Gabriele Detti e per Arianna Castiglioni nei 100 rana. Ecco qua anche il TG1. Allora riprendiamo con gli ascoltatori e andiamo da Paolo che ci chiama dalla provincia di Gorizia. Buonasera, benvenuto. Ciao, chiamo riguardo all'Expo, cosa offrire all'Expo di Italiano. Io non offrirei un personaggio, un prodotto o qualcosa, offrirei uno sconto al 50%, per esempio, di 3 notti in un albergo in una località qualsiasi d'Italia. Di modo bravo che, Paolo, questa è un'idea di marketing secondo me eccezionale, cioè chiunque venga per l'Expo comprando il biglietto eccetera si prende uno sconto del 50% su un albergo italiano. Bravo. Sì, su un albergo italiano quel 50% che viene offerto può essere offerto in parte dall'albergo stesso, in parte dal comune, dalla provincia o dalla regione dove... Beh, comunque sarebbe turismo comunque in più, giornate in più, e quindi lei ha ragione, perché non fare uno sconto? Sarebbe una cosa di marketing straordinaria. Sì. Va bene, volevo dire solo questo. Paolo, grazie. Va bene, questa cosa qua bisognerebbe proporla. Chissà se sentiamo qualche ministro nelle prossime sere. Franceschini, no, a chi tocca? Il turismo non c'è, il ministro del turismo non c'è. Martina, quello che ha la delega credo per l'Expo, se non si arrabbia troppo per la questione della cannabis, perché l'altra volta l'abbiamo fatto arrabbiare su quello, lo sentiamo e vediamo se la fa sua questa cosa qua. Maurizio da Roma, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Prego. Senta, io parlare di come abbassare il 30-40% dei processi penali dell'arretrato e anche del futuro. Sì. Se vuole, sì, io lo dico. Io ho lavorato per 20 anni in un ufficio giudiziario. Sì. Allora, mi ricordo ancora quando se fosse ieri che a gennaio arrivò un fascicolo in cui c'era una denuncia, quindi un fascicolo penale, una denuncia contro ignoti per il furto di un coniglio e due galline. Ora, di questi fascicoli qua, non solo di conigli ma anche, sì, diciamo, di furti, ce ne sono migliaia, tant'è vero che spesso la televisione dice è l'obbligatorietà dell'azione penale. Scusi, penale, intanto io sto guardando il servizio sul TG della 7 agli ascoltatori e ho visto Renzi che passeggiava e in effetti è vero, la giacca copre il polsino della camicia. Aveva ragione Pasquina, come si dice, la giacca troppo lunga, la manica della giacca troppo lunga, è una specie di effetto Charlot, sembra questo. Scusi, Maurizio. No, prego, prego. No, è così. Allora, di questo discorso dell'obbligatorietà dell'azione, sì, penale, e quindi di non renderlo più obbligatorio, perché in altre, molte altre nazioni civili non è obbligatorio l'azione penale. Chiaramente se arriva un fascicolo del genere con pollo e due galline a Natale, poco dopo Natale, chiaramente viene archiviato più delle volte perché il colpevole è difficile trovarlo. Allora, di questi fascicoli che intanto le procure, ci sono migliaia. Ora, con 250.000 avvocati è un po' difficile, come dire, limitare, andare a cercare di risolvere veramente i problemi, perché il vero problema dell'Italia, sì, è che ancora stiamo troppo bene, purtroppo. Cioè, nel senso, quando staremo ancora peggio, capiremo che dovremo prendere dei provvedimenti sulle pensioni tributive, quello e quell'altro. Sull'obbligatorietà, diciamo, sarebbe molto semplice. E non sarebbe mai neanche, diciamo, difficilissimo, e abbatterebbe sicuramente un 30% dei fascicoli da intasare. Maurizio, la sentiamo male, grazie. Comunque scriva, credo che ci sia una mail anche per la riforma della giustizia, perché insomma, il governo procede così già da un po' di anni, ormai si fa tutto online, quindi c'è credo la possibilità di mandare proposte anche per quanto riguarda la giustizia al ministro Orlando. Lei mandi le sue idee, no? Perché no? Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io volevo proporre per l'Expo, sì? Come ieri è stato un signore che ha proposto giustamente l'invenzione del personal computer, sì, che è stata fatta lì a Torino e un'altra cosa del genere. Io pensavo che la cosa più importante che abbiamo inventato sì, all'America. Perché ride? Diciamo. Perché ride? Ah, perché la scoperta dell'America, Colombo. Cioè, si chiama scoperta, però è una vera e propria invenzione, vabbè, si fa per dire. Insomma, comunque una bella caravella lì. E poi, insomma, ieri vedevo un film in cui gli inglesi, le suore, comprano una lambretta, non avevano la lambretta in Inghilterra, non avevano la Vespa, e allora dicono, ma non sarà pericoloso? Vero. La Vespa sicuramente è un simbolo dell'Italia. Sì. Sì, dice non sarà pericoloso andare su questa, no, dice non c'è problema visto che la fanno usare agli italiani, quindi è chiaro. Ah, diciamo che così. Va bene, quindi, va bene. Allora, visto che abbiamo queste caravelle, poi potremmo anche parlare di Fermi che ha inventato la centrale nucleare, oppure Volta, che se non ci fosse stato Volta saremmo ancora con le lumiere, con i lumini a petrolio, quindi, quindi la pila di Volta, queste cose qua. Vabbè, lei è pieno di idee da questo punto di vista, sì. No, beh, ma sono le invenzioni italiane, addirittura, sì, lo sa che due toscani hanno inventato il motore a scoppio, quindi non è che l'hanno inventato i tedeschi. Lei ride, perché ride Alessandro? Questa cosa, no, che l'Italia... perché sono tutte cose che sono ignorate, sì, come, cioè, hai capito? Se noi, io sono bolognese, quindi tendo a pensare che, cioè, abbiamo avuto Galvani, no? Sì. Luigi Galvani, che era bolognese. Che si è accorto della rana, una cosa che vibrava quando, insomma. Allora, quando toccavi il ferro, allora è una cosa pazzesca. Se Galvani non se ne fosse accorto, forse perché in Italia gli inventori, quelli che hanno la cultura scientifica, gli ingegneri, non godono di grande fama, cioè noi ci appassioniamo di più per altro. Ma lei, scusi, ma lei pensi Enrico Fermi? Se non sei Enrico Fermi, noi non ci sarebbe. Lui costruì la prima centrale, la prima reazione a catena, quindi c'era lui a dirigere. Vabbè, ma insomma, ce ne sono tanti, sì, Marconi, sì, con la radio, sì, anche mi suggeriscono giustamente, esatto, visto che questo, esatto, di lavoro facciamo. Va bene, ma vabbè, scegliendo, dovendone scegliere uno, le caravelle. La caravella, la caravella, una bella caravella, puoi mettere anche, vabbè, la pila di volo, qualcosa. No, che no, no, uno Alessandro, perché il gioco si fa con uno. Okay, la caravella, abbiamo deciso la caravella? Vada per la caravella. Va bene, certo. No, deve deciderlo lei. Sì, sì, sì, la caravella, è ovvio che la cosa. Perfetto, grazie, allora, grazie. Gli americani sappiano perché ci sono. Arrivederci, buona serata. Luca da Firenze. Eccoci, buonasera, intanto eccoci, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ha ragione il precedente, la persona intervenuta in Toscana e particolarmente a Firenze abbiamo inventato diverse cose, oltre al motore a scoppio con Barzanti e poi Meucci il telefono. Barzanti, questo non Barzanti, lo sapevo proprio. Meucci il telefono, certo, il gelato Bernardo Buontalenti e via discorrendo. Volevo, c'è qualcuno che suggerisce, però chi è la moglie, Luca? La moglie, sì, mi ha detto la besciamella. La besciamella, Caterina, ma la besciamella non vale, dai. Non possiamo metterla come un'invenzione mondiale a fianco alla radio o alla pila. Però volevo intervenire prima sul problema, sull'argomento lì delle pensioni. Sì, a quest'ora poi mi scusi, ma a me la besciamella mi è entrata proprio nel cervello. Perché la besciamella, e mi sta suggerendo ancora la forchetta anche. Ma come la forchetta? La forchetta l'ha inventata Caterina dei Medici. Sì, come utilizzo. Ma sì, state cucinando voi? State mangiando? No, andiamo a cena fuori. Bravi. Stasera bravi. Pesce. Ad alimentare pesce. Sì. E quindi? Niente, cosa le stavamo pensioni dicendo? È necessario, è doveroso fare questo no, prelievo, ridurre le pensioni alte, perché c'è gente che prende 30-40 mila euro al mese di pensione. Non è più possibile. Non è più possibile. Non mi interessa che la gente dice ma il risparmio sarebbe poco. Si leva a queste persone, hai preso finora tutti questi soldi, basta, ora è finita, prendi 5.000 euro che sono già tanti. E a lei proprio sarebbe per una riduzione draconiana. Ma poi è possibile se gente prende 2, 3, 4 pensioni, vitalizi, cioè per loro non cambia niente. Col metodo poi, come sono andati, ho retributivo, a noi ci hanno cambiato le carte in regola, ci fanno andare col contributivo, non ci daranno niente di pensione e loro possono prendere ancora, sempre burocrati, politici, eccetera, 40-50 mila euro al mese di pensione. Non è giusto, via. Leviamo e ridistribuiamo, aumentiamo le pensioni base, invece di 500 euro le portiamo a 1000 euro. Così la gente può spendere e vivere in maniera appena più decorosa, perché con 1000 euro è già questo, e va fatta questa cosa. Va bene Luca, grazie, grazie, buona grazie, serata, buona cena, buona cena di pesce. Arrivederci. Ma dove andate? Sapete già dove andare? Sì, qui a Firenze. Ma sì, il pesce a Firenze, sì, vabbè, si mangia da tutte le parti. Sì, si mangia bene. Perché altrimenti c'è la famosa Fiorentina, però non è la molto Fiorentina. No, ora no, d'estate se preferisco un po' di pesce. Bravo, anch'io sono d'accordo. Valerio da Firenze, buonasera. Sì, buonasera, io intervengo perché la settimana scorsa mi sono preso qualche giorno di vacanza, ho detto ma andiamo a vedere un po' il nostro sud Italia, c'ero già stato a Pompei, Ercolano, eccetera, eccetera, però anche sentendo la vostra trasmissione, sentendo il Garbi che interviene sempre, giustamente, siamo tutti d'accordo sulla bellezza dell'Italia, ho detto andiamo a verificare cosa ha fatto magari il ministro Franceschini, sì, eccetera, eccetera. Insomma, una delusione abbastanza cocente, perché vai a Pompei, che per carità è organizzata forse meglio di qualche tempo fa, e vai al Foro Romano, alle terme del Foro Romano, e trovi fazzolettini di carta oppure i rifiuti messi nell'intercateggio dove passava una volta l'aria calda per riscaldare, insomma, il calendario. Dentro le terme, cos'è il foro? Cos'è che ha visto? Io non sono mai stato. Le terme del Foro Romano a Pompei. Dentro le terme del foro c'erano i rifiuti? Sì, c'erano rifiuti lì dentro, perché nessuno controlla, non ci sono. Ma non ci sono quindi guardiani, non ci dovrebbero essere dei guardiani. No. Allora, ma parliamo, scusi, Valerio, parliamo di Pompei? Pompei, un'area molto vasta, questo va sempre ricordato, Pompei sì, è enorme. Ma, infatti, quindi... ma io però... sono rimasto piacevolmente impressionato dal fatto che su alcuni siti, in alcuni luoghi vi fossero i guardiani, per carità, sì, sono anche stati carini, eccetera, eccetera, però in altri luoghi importanti come le terme del Foro Romano, che hanno delle caratteristiche particolari perché sono conservate piuttosto bene, eccetera, eccetera, si potevano vedere delle cose tipo rifiuti all'interno delle intercapedini che una volta servivano per far passare l'aria calda del calendario, per esempio. Va bene, Valerio, dobbiamo chiudere. La prossima volta ci racconta però anche cosa c'era di positivo. Hai detto che qualche piccolo miglioramento rispetto al passato lo ha visto, e sarà per la prossima volta. Però ci fermiamo qua, grazie a tutti per aver partecipato anche questa sera, grazie come sempre, e un saluto da parte mia, Alessio Maurizi, ma anche da parte della redazione, Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Marco Lombardo e poi Fabio Cantadori. Poi mi spieghi perché le discoteche nei capannoni industriali non vanno bene, domani lo diciamo. Ciao, buona serata a tutti.